fiato, poi ripeti con noi. Senza te, senza me, questo spettacolo non ci sarebbe mai. Siamo tutti stelle, le gambe anche più belle di Brigitte Bardot. Siamo tutti matti, magari un po' distratti come il grande Charlot. Porca